Ciao, sono Antonino di Roma, ho 37 anni, e sono romantico, ho la testa sulle spalle e sono molto dinamico. Mi piace fare tante cose, tante passioni, dalla barca a vela ai giri in motocicletta. E mi propongo perché è difficile trovare una ragazza in gamba che non abbia paura di confrontarsi col mondo. Quindi, dato che nella vita non bisogna annoiarsi mai, bisogna fare diverse esperienze insieme, perché non provare a partire da una cena, così ci si conosce?